In Romagna queste parole fuoriescono dalla mente, dalla penna di un romagnolo. Le bestemmie sono un po' come le interpunzioni, insomma, le virgole, i punti e virgola, non sono delle vere e proprie bestemmie, in realtà sono proprio nell'uso quotidiano, soprattutto di quella generazione, ma non solo. Io credo che la resistenza sia un gigantesco bagaglio, un gigantesco serbatoio di storie. Cioè esiste la storia, quella con la S maiuscola, che in vari modi ci viene raccontata, e poi esistono le storie, quelle che abbiamo sentito stasera, appunto. Le storie degli individui, dei personaggi che le hanno vissute, delle comunità, comunità in cammino, appunto. Ora, un certo, così proprio è una specie di nightclub, e io mi sento come Frank Sinatra qui sullo sgabello e intonerò That's Amore, no? No, va benissimo comunque, mi piace molto. Stavo dicendo, ho perso il filo, che un certo prometeismo, scusate questa parola, cioè una certa fiducia, fede sconfinata nel futuro, nelle meravigliose sorti e grandi possibilità, secondo me c'è stata un po' in mezzo alle scatole nell'affrontare la questione del passato e della resistenza. Mi hanno detto di alzare la voce. Non ce l'ho molto impostata. In che senso? Nel senso che voi i rivoluzionari, voi i riformisti, questi due in qualche modo due facce della stessa medaglia, cioè persone che comunque hanno avuto culture, che hanno avuto sia quelle rivoluzionarie che quelle riformiste il futuro come punto di vista, le meravigliose sorti, le sorti migliori per l'umanità, ci sono tuttora un po' in mezzo alle scatole nell'avere a che fare col passato. Perché? Perché appunto ci dicono di credere nel futuro e avere una grande fiducia nel futuro, che è qualche cosa di là da venire, è qualche cosa che ancora non stringiamo tra le mani, ci consente di fare molti sconti nel presente e soprattutto di dimenticarci il passato. Certo, non si tratta di essere passatisti, a nessuno frega di essere passatista, però il problema è un po' quello che indicava uno di quei filosofoni tedeschi di una volta, che si chiamava Walter Benjamin, e che diceva nelle sue tesi di filosofia della storia, appunto, in realtà una cosa molto semplice: nessuno si ribella per il futuro. Tutti si ribellano per il presente, per le loro condizioni oggettive nel presente. E ribellandosi una generazione dopo l'altra, si costruisce una catena di ribellioni, di resistenze. Quindi in realtà il passato insiste sul presente. Appunto, le lotte continuano, come ha appena detto il regista, proseguono, vanno avanti. C'è stata una carrellata di immagini, no? Siamo arrivati fino al 2001 a Genova, si potrebbe andare probabilmente oltre, si andrà sicuramente oltre. Cosa significa questo? Significa che appunto in realtà ci si ribella per il passato, ci si ribella per generazioni, per secoli di sangue e sudore, sfruttamento e resistenze, repressioni, eccetera, eccetera. In qualche modo ci si ribella più per i nonni che per i figli, passatemi questa versione un po' volgare. Perché quando il nemico attacca, diceva sempre quel filosofone, neanche i morti sono al sicuro. Anzi, è proprio sulle spoglie che ci si tira le coltellate, e non dico coltellate a caso, è proprio sui morti che ci si contende, quindi sulla storia, sul passato. Io credo che in questi ultimi 4-5 anni in Italia una tendenza che sicuramente data 60 anni fa, una certa sottocultura strisciante, una certa vulgata sulla resistenza, in questi ultimi 5 anni è venuta completamente allo scoperto. Ovviamente non è un caso, ma è venuto allo scoperto in maniera, come dire, sfacciata, spudorata. Parliamo di dichiarazioni di ministri, primi ministri, indipendentemente dalla loro statura morale e fisica. Parliamo di sceneggiati finanziati dalla RAI, cioè con le nostre tasse sostanzialmente, per chi le paga, non solo di una qualità estetica terrificante, ma soprattutto di una qualità narrativa, politica, di senso terrificante, a dir poco criptofascisti, ecco, per intenderci. Vulgate, grottesche sulle foibe, ad esempio, senza nessun approfondimento storico, con un pressapochismo, un'approssimazione incredibile, e che però appunto suscitano polemiche, si discute, si propongono giornate per i caduti da una parte, dall'altra, eccetera, eccetera. C'è un pensiero, dicevo appunto, strisciante che viene a galla, che consente appunto a qualcuno di dire, di suggerire l'idea che in qualche modo nel 1945 i partigiani hanno fatto il colpo di Stato e hanno instaurato una Repubblica Sovietica in Italia, che praticamente fino agli anni 90 ha imposto il suo tallone di ferro sulla penisola. Uno dice, vabbè, questa è la più grande puttanata che uno possa venire in mente, ed è vero. Però, come diceva un altro tedesco, non un filosofo, ma il braccio destro di Hitler, diceva, prendi una falsità, ripetila 1 milione di volte e vedrai che prima o poi qualcuno comincia a darla per scontata. E questo è il problema. Dai e dai, nel senso comune qualcosa comincia a passare. Quindi non è casuale, insomma, tutto questo. Non è casuale che avvenga oggi. E io, senza problemi, punto il dito, penso che la responsabilità principale sia della sinistra storica di questo paese, perché ha deciso che quei morti si potevano lasciare al nemico, cioè ha deciso che Walter Benjamin aveva torto, tutto sommato, che chi se ne frega dei morti, noi abbiamo fede nel futuro. Il problema è che il nemico non ti ricambia la cortesia, diceva De André. Il nemico se li viene a prendere i tuoi morti e poi si viene a prendere te. Non sarà un caso che tra uno sceneggiato sulle foibe, una dichiarazione del ministro Gasparri, ormai ex, una su Berlusconi sulla Costituzione bolscevica che vigerebbe in Italia, eccetera, eccetera, non sarà un caso che nell'ultimo anno in Lombardia svariati centri sociali abbiano subito aggressioni da parte di formazioni di estrema destra. Non sarà un caso, non sarà una coincidenza della storia. È la battaglia per le spoglie, è la battaglia sul passato questa, che però ha una ripercussione immediata sul presente, perché il fascismo non è che è, come dire, sì, è un fenomeno storico, lo possiamo studiare a scuola in un modo o nell'altro, diceva... No, basta con le citazioni, me la vendo come se fosse mia. Diciamo che ogni generazione si guarda indietro e fa delle domande diverse al passato, no? E cerca delle risposte diverse. E quindi per questo credo che sia importante qualunque cosa, anche quella che stiamo facendo qui stasera, in ogni modo, in ogni forma. Dicevo, la battaglia sulle spoglie, però, appunto, non è stata portata avanti. Da un lato, la sinistra, e non solo, diciamo, ha concesso una istituzionalizzazione totale della resistenza e di quel passato. In sé per sé non ci sarebbe granché di male, se non fosse che l'istituzionalizzazione, le corone d'alloro, le fanfare, le celebrazioni, ingrigiscono tutto. Fanno perdere a quella che è stata comunque stato uno dei rari episodi di riscatto di dignità di questo paese, fanno perdere l'appeal, cioè non è più sexy la resistenza nel momento in cui c'è Ciampi davanti, diciamocelo, no? Cioè, il ciampismo è la pietra tombale rispetto a quello che abbiamo visto stasera invece, cioè qualcuno che viene e ti racconta le storie, dando voce a chi magari non c'è più o c'ha 90 anni, no? Restituendogli la voce. Quindi da un lato il ciampismo e dall'altro i pansa, per intenderci, cioè dall'altro i grandi scopritori dell'acqua calda, cioè quelli che hanno scoprono tendenzialmente sempre in odore di, insomma, intorno alle tornate elettorali o giù di lì, scoprono che i tafferugli sono continuati anche dopo che l'arbitro aveva fischiato la fine al 90° minuto, che qualcuno ha continuato a regolare conti, che i giochi non si sono chiusi il 25 aprile del 45, ma fino ai primi anni 50 si è continuato a regolare dei vecchi conti. E sai che scoperta? 20 anni di regime, 3 di Repubblica di Salò, beh, insomma, voglio dire, no, ce n'era. Fratelli ammazzati, sorelle stuprate, delazioni, no? Credo che, come dire, per quanto incondivisibile la giustizia privata, le questioni private, per quanto incondivisibile il farsi giustizia da sé, è perlomeno storicamente comprensibile. Quasi ovvio, direi, quasi scontato. Non è che appunto a un certo punto l'arbitro fischia e dice ok, fermi tutti. Non funziona così, la storia è più complessa di così. E io questi scopritori dell'acqua calda veramente li trovo ridicoli. E stanno da una parte alcuni, cioè stanno dalla parte sinistra e francamente mi sfugge il perché di tutto questo. Ma mettiamoci pure Violante con le sue dichiarazioni di qualche tempo fa, insomma, sui ragazzi di Salò e su scurdammoci o passato. No, il passato non bisogna scordarselo e appunto bisogna continuare a contenderlo. Perché, dicevo, è in realtà sul presente che tutto questo va a finire, che tutto questo preme, perché appunto non è che l'attacco alla resistenza arriva così tutto in una volta casualmente adesso, come si diceva prima, appunto gli rimane un anno per finire di smontare definitivamente la Costituzione, vediamo se ce la faranno, ma di sicuro un discorso già si può fare, cioè che sì, si attacca la resistenza, ma in realtà la si attacca per neutralizzare le organizzazioni sindacali, si attacca la resistenza, ma la si attacca per limitare le libertà civili, si attacca la resistenza, ma in realtà la si attacca per cancellare l'articolo 11 della Costituzione, cioè è sull'oggi in realtà che arriva il rinculo di quell'attacco alla resistenza. In questo intendo quando dico che appunto ci si contende i morti, ma in realtà ci si sta contendendo il presente. È uno specchietto per le allodole, vi dicono vabbè, ma tanto è roba vecchia, voi non ci pensate, erano tutti cattivi, c'era il fascismo, si sparava, buoni, cattivi, chi se ne frega, no? E in realtà appunto è da lì che comincia il bandolo assolutamente per arrivare all'oggi. Allora, per farla breve, io credo che appunto l'unico antidoto a tutto questo sia guardare indietro, non guardare al futuro, appunto, che è soltanto una scommessa, ma guardare indietro, guardare alle macerie della storia, perché il tempo passa e le macerie sono quelle che restano, e cominciare a scavarci dentro a queste macerie, non come degli archeologi, cioè per cercare il vaso antico, metterlo in un museo e fare il museo della resistenza. Non me ne frega niente del museo della resistenza. Ma per trovare degli utensili, degli strumenti, delle storie che sono utili oggi, che ci possono ancora servire come chiavi per capire la realtà. Quindi cercare sostanzialmente le storie, in questo senso noi abbiamo intitolato il libro Asci di guerra, appunto Tomahawk, da disseppellire, perché si è sempre sul sentiero di guerra. È chiaro che il riferimento non è alle armi materiali, pistole, mitra e quant'altro, ma appunto agli strumenti utili per la lotta. Questo credo che si debba continuare a fare, aprire questo serbatoio e dare voce, continuare a raccontare queste storie, ridargli linfa vitale, farle circolare. Questo è l'unico modo per mantenere vivo anche un senso comunitario, un senso politico, nel senso più largo del termine, perché credo che senza comunità non si vada da nessuna parte, e una comunità che perde le sue storie, che perde il suo passato mitico, ma lo dico nel senso più laico del termine, in questo caso, è destinata a finire più o meno come il Pelle Rossa. Io mi auguro che, insomma, avremo una fine diversa tutti noi. Mi fermo qui. Thank you.